Zolt. Fulminati in azienda. Ebbene sì, cari colleghi, anch'io ho un'anima, eh? Talvolta mi tocca riconoscere le esigenze delle maestranze, cioè, perché c'è bisogno di umanizzare le relazioni tra colleghi. Incredibile. Lo so, c'è un diffuso bisogno di contatto umano, Oddio, di contatto umano. Mi sei depresso sul pezzo. Allora, vi ho cercato perché ho una comunicazione da fare importantissima. Siete pronti? Sì. Lunedì mattina si va tutti a fare una gita. Inauguriamo il picnic day. Incredibile. Ma Marco, ma che idea magnifica! Sarà come a Pasquetta, tutti fuori. Ma che porta. Mi sta accoglionando? Ma davvero? Ma davvero c'entri? Certo, un bel picnic al parco, tutta l'azienda, tutti insieme, facciamo una bella grigliata, i giochi all'aperto. I giochi. Così almeno tutti stacchiamo un po' la spina dal day by day e parliamo tra di noi, ci avviciniamo, bello. Rompiamo le barriere, eh? Che bello, un'iniziativa country trip. Faccio subito un comunicato con le indicazioni sull'abbigliamento informale campestre, direi. Cosa ecco, pensi? io che devo fare? E tu, carissimo, il mio centro, devi solo spargere la voce e farmeli venire tutti, ma tutti però, perché così lunedì pomeriggio, belli rilassati ma carichi, si lavora come delle bestie. Senti, non è che una delle trovate da formazione, che poi arriviamo lì e ci metto una spaccallegna per il team working? Marco, ho trovato il set da picnic perfetto, con i tovaglioli coordinati al nostro logo. Lo abbiniamo a soffici plaid per i dirigenti e a coperte da campo per gli altri. Ecco, te pareva. Naturalmente mangeremo cibo probiotico. Ma non si era detto grigliata? Io de sto cibo da mensa non ne posso più. Dai, basta, centriti, lamenti sempre. Ho Ma dovresti essere grato alla tua azienda. Sai come ti fa bene un po' di aria fresca, eh? Hai sempre quel colorito color topo morto. Vabbè, scusate, ma che c'entra? Non mi pare questo il centro del discorso. E comunque, perdonate la domanda, ma se siamo tutti al picche nicche, chi c'è sta al call center a fare assistenza online, per non parlare del resto? Ma sì, ma dai, non ti preoccupare, basterà lo stegista. Chi vuoi che si metta a chiamare lunedì mattina? Va bene, dai, lasciamo lì Pacco. Uè, centri, va che bello, va, senti gli uccellini che cantano, va che prato. Sento, sì. Tutti belli felici, tra l'altro tra pochissimo c'è il tiro alla fune. Ma che tira alla fune, c'ho Pacco in linea, è disperato, dice che si è bloccato tutto. No, i sistemi sono impazziti, è la rivoluzione delle macchine. Dai, dammi il telefono che ci parli, dammi il telefono, parlaci pronto. Tu. Pacco, cos'è successo, cos'è sto caso? Dottor, se tutto bloccato, se c'è un teschio su tutti i monitor, sono terrorizzato, se i pirati. Ma cosa dici, ma sei scemo? Pacco, ma cosa stai dicendo? Aspetta che ti chiamo lì team manager. Vieni qua, team manager. Parla con Pacco, che non capisco, abbiamo un casino. Vieni qua, parla. Pronto, sono lì team manager, dimmi. Dottoressa, qua quasi il computer è morto. No, è morto. No, ma stai tranquillo, non è mica successo niente. Adesso risolviamo. Ascolta sì, Pacco, sì. Apri bene il prompt e i comandi. Prompt fatto. Ecco, pitch start e poi esegui. Ecco fatto. Ascolta, si è aperta la finestra del prompt? Sì, è aperto. Ecco, allora, fai ben dei check con ping recursivi sugli IP pubblici nattati dai firewall. Scusa, Centri, ma cosa gli sta dicendo? Mi fa paura. Per me lo sta insultando, sto firewall è una parolaccia. Come va, Pacco? Bang, dottoressa, sì, aspetti. No, non funziona qua, non funziona. Cos'è successo? Sarà un virus. Ah, beh, ho capito. Niente, allora, Pacco, fai bene una cosa. Sì. Spegni gli switch, che poi domani ci penso io, sì. Là, che dici? Niente, Pacco, ci penso io, Pacco. Vabbè, non lascia perdere, va. Ciao, Pacco. Vabbè, ciao. Allora, cosa mi dici di me? Cos'è successo? Spiegami. Ma niente, è entrato un virus che ha bloccato tutti i sistemi. Ascolta, dobbiamo ripristinare i server e restaurare tutti i backup. Ma cosa dici? Ascolta, io sul pezzo, tu i team manager, traduci, io parlo la tua lingua, non ho capito niente. Ascolta, sto dicendo che è tutto bloccato e finché non lo sistemiamo non funziona niente. Almeno fino a stasera, vabbè, tutto ma, bloccato, ma non si come può faremo a lavorare quando torniamo in ufficio oggi pomeriggio, scusa? Ascolta, non vi preoccupate, ci penso io, dammi qui il megafono. Carissime colleghe, scusate, grazie. Un attimo di attenzione, volevo dirvi, ci tenevo di cuore che... Visto il successo di queste prime poche ore che abbiamo passato insieme, dichiaro prolungato per tutto il giorno il picnic aziendale! Bravo! Grazie, bravo, sono felice! Oh, naturalmente recupereremo questa mezza giornata di lavoro domenica! Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T